24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma. Uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio. E lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera. Per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca. Il problema alla Sartori. E vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese. I bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. E noi vogliamo, elettori, il bagno alla turca. Regina di cuori. Berlusconi è una persona che sta al tavolo, però diciamolo, non dà più le carte. Questo mi sembra un dato di fatto oggettivo. Berlusconi, io faccio di tutto perché Berlusconi sia al tavolo, a quella parte dei miei che dicono ah, Berlusconi rappresenta milioni. Non dà più le carte, dai. Ma non c'è dubbio, Berlusconi ha dato le carte per 20 anni in questo paese. Poi ciascuno potrà valutare, la storia dirà se ha fatto bene o male. Io penso che non abbia comunque fatto bene. Non dà più magari le lei carte. Pensa che ha fatto bene, chi lo sa. Meraviglioso è il mentale, il cuore agrodo in cingula. Mi lasci e poi ti lasci andare. Allora, non dà più le carte Berlusconi, eh? Non dà più le carte, neanche le regine di cuori, eh? Iniziamo un po' così, rock, oggi con il Litfiba, prima maniera, quelli che piacevano a noi. Sono le 6:28 minuti e questo è 24 mattino, nel momento in cui inizia ufficialmente l'83esima settimana decisiva per la riforma elettorale, nonché per l'abolizione delle province. È vivo tra mille tentazioni, pensieri peccaminosi, perché la storia è una farfalla in fascia. Ragazzi, questo era il Piero Pelù in forma, eh? Eh? Vedo Carmelo Lauricella in regia che annuisce, eh? Ragazzi, questo era il Piero Pelù. Saluto anche Lorenzo Nespoli in redazione, noi qua siamo felici perché Milan ha vinto 2-0, è tornato al campionato e quindi noi siamo gli unici felici di questa giornata, mamma mia ragazzi. Marione Adinolfi, buongiorno. Fai apposta, vero? Chiamarmi lunedì quando io ho fatto un capolavoro. Ieri mancavano 3 secondi, Voglio dare questa soddisfazione. Voglio salutare subito gli amici Granata di mattina, farvi insomma. Mamma mia, ragazzi, pensa. È bellissimo che voi siate del Torino. È bellissimo. Sei è veramente bellissimo. Posso dire, sei, cioè, ma un minimo di sportività, ma un minimo capire il dramma degli avversari, ma sei veramente. Allora adorano queste cose così, loro vogliono perdere così. Allora noi siamo contenti di aver dato loro un'altra tacca, diciamo così, per il racconto. Mamma mia, ragazzi, della, io del cuore se granata. Fossi lì e fossi del Torino ti strozzerei in questo momento. Fammi salutare un altro che sarà contento. È del Toro? No, è Federico Novella. Buongiorno. Buongiorno. Io ero andato a dormire sul pareggio, ma poi mi sono svegliato e ho trovato questo risultato. Che ci vuoi fare? Ieri quando ha fatto quel gol, chi è quel terzino lì, Garrincia, che aveva il Torino, che ha fatto 95 metri? E ho twittato a Mario Giordano, ho detto mamma mia che cosa ho visto fare a Bruno Perez. Mario Giordano, grande tifoso granata, lo so, un po' più, ecco dai, fate un messaggio per Mario Giordano. Federico, dai, inizia tu, dai. No, ma mio amico Mario Giordano, è meglio lasciarlo stare oggi, poverino, lasciamolo nella sua sofferenza, dai. Ecco, Marione, tu? guarda del gol de Perez, Giordano, divertiti, guarda, riguardatelo, che è bellissimo, un gran bel gol, bravi, bravi così, sempre così ragazzi, forza Mario, forza, dai. Secondo me mi aspetta alla sbarra adesso con un bastone. Effettivamente, io questo adesso lo taglio e lo mandiamo via mail. Mi aspetta con un coltello tra i denti. Esatto. È così. E sono così due contenti juventini che hanno vinto il derby. Devo dire che se c'è un modo per vincere il derby, questo è il migliore. Io mi ricordo una volta un gol di Wea all'89esimo, pam, di testa all'Inter. Quando non rimetti neanche la palla al centro, era... quando non rimetti la palla. Esatto. Era l'89. Sì, era l'89. Amico mio, passava un quarto di secolo. È bello avere questi due ricordi. Vabbè, ma perché mi ricordo che l'abbiamo vinto all'ultimo minuto. Come Piero Pelù, è vecchio ormai. Se n'è andato. Ciao, fate voi adesso. Vabbè, allora ricordiamo e vorremmo sapere un aggiornamento da Maria Dinolfi. Come va Mario Adinolfi? Sai Federico che Mario Adinolfi ha fatto un'iniziativa a questi microfoni veramente clamorosa, cosa che peraltro mi risulta vuoi fare anche tu, cioè ha rivelato il numero del suo cellulare. Sì. Federico, precedo con il tuo 335. Ma perché ha fatto questo gesto? Non lo so. Ma perché? Non lo so. Io ho un obiettivo preciso. Io devo bloccare la segreteria telefonica di Radio 24. Devo smettere di telefonare gli psicotici, allora così finalmente Mila può far vedere che ha un pubblico di livello, non il pubblico che realmente ha. Ecco, a quest'ora di mattina, ecco, che ci può stare? I matti a sentire sta roba, no? Adesso i matti, una buona percentuale sta chiamando me al 334-3798-534, che è il mio numero di cellulare. Lo ricordiamo bene, 334-3798-534. C'è uno ieri che si è offeso perché non l'ho richiamato. Che fai? Non mi richiami? L'educazione innanzitutto. Esatto. Ho fatto l'errore di rispondere a un suo SMS una volta. Che diceva? E da allora come passi sempre su queste cose, insomma, matrimonio omosessuale, cioè, ma ha cominciato a tirare fuori statistiche, robe, follie. E poi a un certo punto mi ha detto: ma come non rispondi più? Oh, figlio mio, ti ho risposto una volta, insomma, non è che chiama, insulta e me lo rompe più, insomma, dai, fai come gli altri. Comunque attenzione di merda! La telefonata media, No, rifaccia. Concetti profondi. Esatto, rifaccela bene. La telefonata media è tu, pronto? Pronto? E magari Nolfi, sì. Attenzione di merda! C'erano però che sono. E tu che fai? Io, metti questo subito giù o? No, io dico sempre, vabbè, un di solito accompagno, insomma, con un ringraziamento educato. Sì. Io dico, la ringrazio per l'ampiezza del vocabolario, ecco, una cosa così. Ma di solito l'hanno già buttato giù perché hanno la caratteristica della vigliaccata, quindi spreco pure il mio ringraziamento, per la verità. Vabbè. Allora, ringrazio anche i tanti che mi hanno chiamato per farvi complimenti, non lo voglio fare, sono veramente tanti che l'hanno fatto. E vabbè, vedi che ti abbiamo... Grazie anche a loro. Cioè, ecco. Però preferisco gli insultatori. Ti diverti di più. Allora ragazzi, la politica che cosa racconta in questo momento? Intanto abbiamo scoperto che il 27 gennaio Giorgio Napolitano non sarà più Presidente della Repubblica, ha mandato una lettera ai Presidenti di Camera e Senato dicendo che non potrà partecipare alle celebrazioni per la giornata della memoria. E quindi, se tanto mi dà tanto, ci siamo. È partita questa roba noiosissima, ancora più noiosa della legge elettorale. Solo Adinolfi la troverà interessante, che è la corsa al Quirinale. Oggi Vendola si distingue per un'intervista a Repubblica dicendo: ma un nome sopra le parti, non so, anche una Milena Gabanelli, perché no? Ma perché? Marione, di qualcosa tu. Ma questa è la fase più divertente, mi partono le puttanate, capito? Milena Gabanelli, bravissima giornalista. Invito il mio amico Federico a virare dalla sua solita trasmissione di cronaca mattutina in cui ci becchiamo le case, le occupazioni. Adesso un bel filo avviso sul presidente prossimo funziona. Un contest. Mettila proprio sulla chiave chi l'ha visto, sul prossimo presidente della Repubblica. Cioè, sulla chiave proprio andiamo. Vabbè, a ma cercare. Tu guarda, Mario, tempo fa avevi detto che sarà Franceschini, ma sì, dai. Sarà Dario Franceschini il prossimo presidente. niente. Un'elezione alla Cossiga, secondo me molto rapida, con un 57enne Franceschini, ha la stessa età di Francesco Cossiga quando venne eletto. Io sono un cultore della materia, adoro le votazioni sul Presidente della Repubblica. Beh, adora legge elettorale e le imboscate per fottere Andreotti, Forlani. La mia adolescenza si è nutrita di questo, penso. Mamma mia, ragazzi, Federico, capisci tante cose, bene, insomma, capisci perché diventa juventino poi, vabbè. Senti, no, ma è difficile dirlo però adesso, Franceschini, io faccio fatica a dare un nome perché nessuno riesce a controllare bene le sue truppe adesso, no? E quindi ci sono tante cose. Ma di una puttanata anche tu alla Gabanelli, dai, su, di qualcosa. Ma Gabanelli, io, a me piacerebbe anche solo per un mese Giampaolo Panza al Quirinale. Giampaolo Panza, senza cosa può succedere con Giampaolo Panza al Quirinale, non è male, Giampaolo Panza è uno che ha raccontato la storia d'Italia proprio senza remore. Io guarda un po', metterei, se a 50 anni non lo so, Mario Giordano, così oggi mi viene perché almeno se si arriva a 50, forse sì, non credo che abbia voglia di farlo, francamente. No, lo so, però magari potrebbe subito per decreto togliere 4-5 scudetti alla Juve, così subito. E poi il ripristino alla capitale a Torino. Esatto, capitale Torino, capitale Torino. Però vabbè, tutte le volte poi che invito ad Inolfi arriva questo messaggio. Appena, Mario, devo dire, appena fatelo parlare del suo libro. E quando finisce la trasmissione dice: perché non l'hai fatto parlare del suo libro? Arriva questo secondo messaggio. Cosa vuoi dire del tuo libro Voglio la mamma? Forza, dai, di qualcosa. Voglio dire che fra 8 giorni esce Voglio la mamma 2015. Ecco la riedizione. Che vuol dire? Che ho fatto il libro è versione 2.0, 4 capitoli in più, la strenda natalizia. Siccome il libro è andato bene, sono molto carini quelli che ogni tanto mi fanno qualche complimento sul libro. Mi dicono che ci sarà un inserto con tutti gli insulti che hai ricevuto dalla tua segretaria. Effettivamente sì, a ciccione. No, è proprio dedicato agli amici di Radio 24 che chiameranno al 334-3798-534. Dopo lo ricordiamo, non ti preoccupare. Comunque no, Marione, mi sfugge un po' in questo momento della politica. Dai, riassumicelo un po'. Oggi ho letto sul Corriere della Sera, questo è il titolo di prima pagina: Renzi, per la prima volta la fiducia scende sotto il 50%. Ecco. Ma ragazzi, fate veramente ride, fatemi farlo. No, ma che ne so, è l'apertura del Corriere della Sera. L'elezione a imperatore di Matteo Renzi del 25 maggio 2014, cioè le ultime europee, come qui abbiamo raccontato, è un'elezione di natura imperiale che consegna al buon Matteo Renzi il potere sovrano sul paese, sta producendo una serie di elementi di terremoto che forse non vi sono evidenti, tipo che il 5 Stelle si è squagliato completamente, insomma, il povero Beppe Grillo non ce la fa più. E Renzi, senza neanche l'onore delle armi, ti ha detto: abbiamo rottamato il 5 Stelle. E purtroppo è vero, cioè, a me dispiace pure perché quell'esperienza è stata una grandissima esperienza, ma è stata. Quindi allora voi mi dovete spiegare, se domani si va a votare, sì, secondo voi gli italiani a chi danno consenso? Guarda, io ho letto Silvio Berlusconi, 80 anni, oppure dal consenso al 5 Stelle che doveva fare la rivoluzione. No, ma infatti quando ho letto questo articolo di Pagnoncelli, Renzi è sotto il 50%, a un certo punto leggo che la fiducia in Alfano sarebbe al 22%. Io l'ho riletta 50.000 volte, non era al 2,2%. Ho letto Alfano al 22%, ho detto c'è qualcosa che non va, che ma non questa mi trovo. Fiducia poi non sono voti questa, no, fiducia. No, la fiducia è ti piace quello che fa, oppure se passa, se lo vedi sul marciapiede lo saluti, sì, allora hai fiducia in un politico, e questo hai capito. Effettivamente questo si può tradurre la grande fiducia. Federico Novella, Federico, dovresti dare il numero del tuo cellulare. Esatto. Guarda, io tra l'altro mi risulta che Federico ne abbia due, quindi. Ma attenzione, però, attenzione, è un momento importantissimo. Che Marione, è un momento importantissimo. Mea culpa, perché ho incrociato una decina di giorni fa Federico Novella e mi ha detto che c'era una buona novella. Ma senti un po', Federico, ma sì, tutto a posto? tutto a posto. Si può dire? Tutto a posto, si può dire. Dai, dillo tu, dire. Dillo tu, dillo è a nata, Mario. È nata, giovedì è nata la mia terza figlia. Quindi abbiamo fatto grandi feste. Ma un applauso. Ho capito, ma come tu. Si chiama? Come si chiama? Si chiama Ottavia. Ottavia, pur essendo terza. Ottavia. Pur essendo terza è Ottavia, nome insomma. In onore del Milan, in onore del Milan. Ottavia. Il nome del Milan, naturalmente. Guarda, cercavamo un nome rossonero e quindi siamo molto felici. Allora, un grande abbraccio ad Ottavia. Non ho capito, ma tu che ci fai invece di stare con tua moglie? Vai a lavorare adesso? Ma maleducatone, vergognati. Mi sono preso un giorno di pausa, quello che mi viene concesso, insomma, un giorno di pausa. Abbiamo fatto una puntata con il fiocco rosa alle mie spalle, è stato molto, molto pittoresco. Adesso siamo tornati al lavoro, ecco, per le ultime due settimane. Capito, dai. Mario, altro bellissimo, non si fanno figli in Italia. Federico ne ha già fatti tre con la moglie, tre. Guarda, io sto ripopolando il paese. Esatto. Un abbraccio facciamo un mazzo così agli immigrati con Federico, hai capito? Populista salviniano. Vabbè, comunque la politica è il Brunetta del giorno. Il Brunetta del giorno, sapete che quando c'è Brunetta, io non me ne voglio privare, il Brunetta del giorno. Sentite Brunetta. Presidente Renzi, che non c'è mai in questo Parlamento, che non c'è nei luoghi dell'Italia in cui si soffre, che non è andato a Genova, signor Presidente del Consiglio, che va solo dove ci sono gli applausi e che non viene in Parlamento. E questo la dice lunga, signor Presidente del Consiglio, che non c'è, sul suo rispetto verso le istituzioni. Se non avete capito, lui lo chiama il signor Presidente del Consiglio che non c'è. Mario, il Presidente del Consiglio che non c'è, Mario. Vabbè. Però sapete, ecco, la cosa più interessante che ho letto su Berlusconi, Forza Italia, l'ho letta da Ugo Magri sulla stampa, è sempre ben informato Ugo Magri su quello che succede attorno a Berlusconi. Pare che Berlusconi abbia posto come condizione, non come richiesta, a Renzi, nel famoso patto del Nazareno, il volersi ricandidare, cioè riavere l'agibilità, la candidabilità. Perché a febbraio gli scade ormai i servizi sociali, quindi sulla grazia chi se ne frega, ormai è quasi finito. Ma la ricandidabilità in Parlamento la vuole in maniera perentoria. Marione, ce la farà? Cioè, non beh, si capisce. Non può avercela perché devi averla con un intervento legislativo, appunto. Come ovvio. No, cioè, però non è che una volta sono scaduti i servizi sociali. No, però lui ha detto sono pronto a votare chiunque al Quirinale, certo. Pur di avere questo. È una cosa stranota, però io penso che sostanzialmente a Berlusconi non interessi moltissimo fare il candidato alle elezioni. Io credo che questo tipo di... Allora, la politica ormai, come avete capito, è solo dialettica di rapporti di forza. I rapporti di forza sono talmente sbilanciati in questo momento che Berlusconi non può permettersi di porsi una condizione di questo genere. Non succederà. Cioè, è difficile che Renzi possa permettersi adesso di fare una norma pro Berlusconi. Molto complicato. No, però Berlusconi si accontenterebbe, fra virgolette, di un Presidente della Repubblica che, come dire, facesse attenzione alla sua situazione. Cioè, si accontenterebbe di un Giulio Alamato. Bravo Federico, bravo Federico. Proprio quello, vuole un Presidente che ha in qualche modo un atteggiamento non ostile dopo aver passato, insomma, par di decenni con presidenti che non proprio l'hanno visto simpaticamente, insomma, quindi c'è e quindi c'ha il nome o lui o se stesso o Giuliano. Ma in questo paese voi pensate si può eleggere Amato Presidente della Repubblica? Volete veramente sfidare i... Poi date i vostri telefonini, va? Fate sapere. Ma cosa c'entriamo noi? Mica noi li votiamo, lo votiamo Amato. Ma voi volete bene al pubblico, voi siete quelli che vogliono bene al pubblico. E date il telefonino, fate vedere come. Vabbè, dopo il traffico e la segreteria telefonica lo darà Federico Novella, anche per ricevere tutti gli auguri per la nascita di Ottavia. Ma intanto devo dire che ecco il nostro fedelissimo sul regionale Terni Roma, che ci scrive che il regionale del 545 si è inchiodato a Spoleto. No, voglio un treno, ci scrive Silvio. E noi potendo te lo daremmo, caro Silvio, amico nostro. Dai, forza Bologna, ci scrive Gianni. E Ale, andiamo anche in Serie B dopo il traffico. Pronto? E magari no, sì. Agiccione di merda. 24 mattino. Ultimamente io sento solo pettegolezze e non informazioni. Informate la gente, cioè, ma deve essere Striscia la Notizia o Le Iene a beccare sta gentaglia. Come dice Renzi, non ci saranno più furbetti. Ma guarda a casa tua, ma guarda il palo che c'è nell'occhio. Renzi, devi fare un partito tutto tuo. Manda a fare in culo il PD. Dammi retta, altrimenti morirai, morirai, ti uccideranno. Santoro è un altro di quelli che ha mangiato anche a Mediaset, per cui non facesse tanto il santo. Certo, il giocattolo ti ha rotto, il nemico Berlusconi è come un pugile suonato, per cui non sa più chi attaccare. Salvini, Matteo Salvini, l'ultima speranza, io credo, per questa povera Italia sei tu. Buongiorno, un bel messaggio per Montecitorio. Chi è capace di dirmi quanto pesa una zappa, una gliela posso regalare. Milan, ma dico io, dico, tu non sei un giornalista da $250 alla settimana. Tu, per le notizie che dai di una tale rilevanza, sei un giornalista da 2 euro al giorno e baciati i gomiti, fidati. Al giorno, bene, più o meno quello che Federico Novella guadagna da Mediaset. Non sono come te, non sono come te. Vabbè, che devi fare? Vabbè, c'è questo che dice di fare a Renzi un partito da solo, è una vecchia vulgata, no? Ma Renzi dovrebbe lasciare il PD, Federico, secondo te? Dovrebbe lasciare il PD? Cioè lasciare il PD nel senso spera e confida in qualche modo una sorta di scissione, di rottura per dire ah basta, ci liberarsi. Non credo, per adesso lui è il PD e gli altri non hanno nessun motivo per andarsene, cioè ce l'hanno ma non hanno la possibilità. Dove sei andato? Ma che? È eccomi, sono qua, sono sotto l'antennone di Cologno, c'è qualche interferenza. Non credo, gli altri non hanno nessuna convenienza ad andarsene, quindi lui continuerà ad essere il PD, almeno per un po'. Poi ci sono le leggende fantascientifiche che dicono che tra qualche mese, tra qualche anno, meglio ancora, Berlusconi e Renzi potrebbero oddio, fare un partito inventarsi qualcosa al centro. Ma dai, ma proprio Marione, è fantapolitica, no? Ci divertiamo così. La verità è che siccome non c'è più niente da raccontare nell'Italia in vabbè, adesso, allora inventi roba. Adesso. Ma vedete come può venirvi in mente che uno che ha preso il 41% su quel brand adesso prende e cambia brand? Ma come mi viene pizza? Ma non esiste al mondo. Vabbè, c'è chi guarda Salvini, chi lo sa. Sentite Berlusconi cosa dice di Salvini, eh? Berlusconi dice: Salvini ha risposto per 10 anni al telefono di Radio Padania. È bravissimo, perché è stato 10 anni a Radio Padania a rispondere al telefono. No, non faceva il telefonista, faceva quello che rispondeva alle domande, e quindi si è dotato di un linguaggio estremamente. Ma in realtà Berlusconi voleva giocare questo doppio senso, no? Come dire, sì, era uno che rispondeva al telefono. Però è vero, lavorava a Radio Padania. Certo. Era un po' il Milan di Radio Padania. Tra l'altro, fatemi mandare un abbraccione ad Aurora Lussana. Tu lo sai, Marione, che oggi. Oggi è il giorno in cui la Padania non c'è più. Da oggi non c'è più la Padania. Il giornale non è più in edicola, e purtroppo è una cosa che è sempre triste di raccontare. Quindi veramente un abbraccio a Aurora, a tutti i colleghi della Padania. Mi unisco. Quando si spegne una voce è sempre una cosa che dispiace. Ma comunque la voce d'Aurora la sentiremo, eh? Noi vogliamo, la inviterò più di prima, la nostra Aurora Lussana. A proposito sempre di Berlusconi, è proprio vero che vuole l'agibilità in qualche modo. Sentite, addirittura disobbedisco e torno e scendo in piazza, no? Torno in piazza. Il leader si è scocciato e ha detto: beh, io sapete che vi dico, rischio. E non posso più astenermi dal dire come stanno le cose. E scende in piazza. Oggi però l'articolo che più mi ha colpito, voi non l'avrete ancora letto, io l'ho letto 5 volte, basito, e vorrei un vostro commento, voi che siete avete avuto una gioventù di occupazioni di scuola notevole. Io no. Vedi, Federico è come me. No, tu Marione, tu avrai occupato 500 scuole nella tua... Io andavo a scuola cattolica, con una scuola solo maschile, l'ultima che c'era nell'impero austro-ungarico, praticamente. Quindi non era vietatissimo, non hai mai occupato, insomma. Ci ci avrebbero picchiato a sacco, ecco. C'erano ancora le punizioni corporali. Sentite, insomma, no. Sentite un po', Davide Faraone, che non è uno a caso, è il sottosegretario all'istruzione, oltre che uno del PD. Occupazioni scolastiche, una lotta all'apatia. Prima pagina della Stampa dice: ho partecipato a varie occupazioni, esperienze di grande partecipazione democratica. In alcuni casi più formative delle ore passate in classe. Io le istituzionalizzerei pure, se non vi fosse il rischio di svilirne il significato. C'è uno che fa l'elogio dell'occupazione delle scuole, perché si dorme a scuola, ci si forma nella scuola. È bello che io le istituzionalizzerei, ma non c'è il rischio di svilire la scuola, no? Svilisci l'occupazione. Sì, esatto. Continuiamo ad occupare così selvaggiamente. Io no? Dico, Marione, di qualcosa a te. No, non voglio fare il trombone, nonno, eccetera. Se i ragazzi vogliono occupare una scuola e farsi due canne e occupino la scuola. Ma che voglio fare? Io ho una figlia che adesso va a scuola, cioè da 19 anni, e fa adesso l'anno di maturità. No, no, per carità, guarda, per favore smettetela con questo rito idiota del dicembre italiano, ecco. Il rito del dicembre italiano è non solo l'occupazione, ma il racconto giornalistico dell'occupazione, che è sempre identico. Ho capito, sempre... ma qui c'è un sottosegretario all'istruzione in prima pagina della Stampa, io le istituzionalizzerei. Ognuno ha le sue nostalgie, vedete, il Faraone mi piaceva quando andava a mucchiare dentro all'occupazione scolastica. Ma insomma, a mucchiare che? No. Vabbè, no, dico per dire. Le nostalgie tutti ce l'hanno. Tu hai appena ricordato il gol di UEA di 25 anni fa, lo so, mi piaceva. Bello quel gol di UEA. Hai ricordato Pelù, hai attaccato la mattinata con la roba di vivono nel passato, così, mi piace questa roba qua. Noi abbiamo vinto ieri sera, capito? Non abbiamo bisogno di rimembrare, le gioie ce le prendiamo. Mamma mia, due secondi. Caressa deve sempre esagerare, mancavano 6 di secondi, ma per lui erano 2. Caressa deve sempre esagerare. Due secondi, capisci? Ma perché, secondo te, se era anche 20 secondi di più, a voi della Juve non ve li lasciava? E dai, io grazie di avermi fatto Juventino, dai, su. Perché se erano il 48esimo e 10 secondi fischiava sul tiro di Pirlo uno della Juve, e dai, su, e dai. Federico, ricordiamo al buon Milan che essendo a meno 13 dalla Juve dopo la 13esima giornata può tranquillamente chiudere a meno 39 anche quest'anno. Tranquillamente, no, molto meno 3, aspetta che controllo, 21 e 34, sì, sono meno 3. Se la matematica non è un'opinione, è così, in effetti. Meno 40. Il bellissimo sesto posto che stasera occuperanno a 3 punti dal Sassuolo, mi pare la condizione abituale di questo nuovo. Allora io vorrei dire due cose. La prima è questa. La prima è questa: 334 37 98 534. Questo è il cellulare di Mario Adinolfi. La seconda è che la stagione è lunga e se puta caso dovesse mai accadere proprio che la Roma, ma proprio dovesse, voi quel lunedì venite qui in onda, voi quel lunedì siete qui in onda, vi voglio qui puntuali Il giorno del sorpasso della Roma vengo in onda, ripeto il cellulare e vi dico perché noi vinciamo lo scudetto risorpassandoli, capito? Perché questa è tifosi giallorossi, potete augurare tutto il bene calcistico per la Juve al 334 37 98 534, il cellulare di Mario. E al telefono vi do il numero di Milan, insomma, ecco. Mi è venuta voglia di insultare Mario, ma perché non fai un servizio a pagamento, una startup? Guarda che questo un esperimento sociale straordinario, lo dovete provare. Federico, invitalo in onda e metti in sottoimpressione, ovviamente in sovraimpressione, metti il cellulare. E comunque posso testimoniare che gli ascoltatori di Milan sono tanti, ecco, questo ve lo posso dire. E uso tutti WhatsApp perché sono tirchi, e si lamentano se non li richiami e ti vogliono molto bene, ti vogliono molto bene. Va bene, dai, voglio abbracciare Maria Di Nolfi. Ora mette giù, quindi potete pure scatenarvi tra poco a chiamarlo, così come Federico Novella, che alla prossima ci darà il cellulare. Un abbraccio ovviamente anche a tua moglie Ottavia, a tutta la tua famiglia, come dire, di 500 persone che si sta moltiplicando sempre più. Ciao. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Siamo qui, sono le 7:17 minuti, cari ascoltatori, mentre l'83esima settimana decisiva per l'abolizione delle province e la riforma elettorale è già cominciata. A proposito di province, oggi ne parleremo, perché insomma sapete che qua conteggiamo a dire: ma in come, le province ci sono, non ci sono, sono un po' cambiate. Ne parleremo un pochino alle 8:15 di queste nuove province. Come parleremo? Parleremo anche con Massimo Artini, deputato del Movimento 5 Stelle, uno dei due epurati a capire che sta succedendo nel Movimento 5 Stelle. Parleremo anche e scopriremo un nuovo ascoltatore di voi che ci ascolta dall'estero. Siete in tantissimi ad ascoltarci, a scriverci a 24mattino@radio24.it. Scriveteci da dove ci ascoltate e noi una volta al giorno uno di voi lo chiameremo, Oggi chissà dove andremo, lo scopriremo alle 8:50. Intanto andiamo a leggere i giornali. Eccoci qua, il giorno è lunedì e siamo entrati nel mese di dicembre, primo dicembre. Intanto i titoli di apertura: il Sole 24 Ore apre con la tradizionale annuale classifica sulla qualità della vita. Il titolo è questo: vince Ravenna. Ravenna al primo posto nell'edizione 2014 della classifica sulla qualità della vita, davanti a Trento e Modena, mentre all'ultimo posto Agrigento. Gli ultimi tre posti sono Foggia, Reggio Calabria, Agrigento. Il Corriere della Sera: la fiducia in Renzi cala sotto il 50%. Questo è il titolo di prima pagina. Il Messaggero invece annuncia: ecco il piano antiburocrazia, il documento del governo con 38 missioni per abolire file o ridurre file e ritardi. Il Giornale invece, sul Quirinale, il ricatto di Renzi, altro che trattativa, questo è il titolo di prima pagina. Poi ci sono molti quotidiani invece che aprono con la notizia di cronaca che sta letteralmente scioccando tutta l'Italia. Repubblica: ucciso e gettato nel fosso, caccia all'assassino di Loris. Loris Stival, 8 anni, trovato morto in un dirupo in provincia di Ragusa. Anche per La Stampa il titolo è: l'autopsia sul bimbo siciliano, è stato violentato e ucciso. Anche Il Giorno scrive: è stato ucciso, in prima pagina con la foto. Io partirei proprio da questa notizia di cronaca. Raramente ci occupiamo di cronaca nera, ma insomma oggi i giornali se ne occupano nelle pagine 2 e 3, come giusto che sia, per questo delitto. A questo punto bisogna parlare di questo, perché è l'ipotesi della procura, omicidio volontario su cui si indaga. Devo dire che La Stampa è il giornale che si spinge più in là nel titolare, come abbiamo visto in prima pagina: bimbo violentato e ucciso. Sono, scrive Francesco Grignetti a pagina 2, gli sconvolgenti risultati dell'autopsia che confermano la drammatica fine di Andrea Loris Stival. Sequestrata l'auto del cacciatore che per primo l'ha ritrovato, ed è stato anche riascoltato l'uomo che si dice ieri in serata sereno. Il procuratore capo Carmelo Petralia e il sostituto Marco Rota stanno lavorando a tempo pieno, fa sapere La Stampa. Sanno che il tempo è cruciale e misurano anche le notizie, oltre a sperare nel colpo di fortuna, come qualche telecamera tra le oltre 30 del paese, tutte da visionare con pazienza e che possono regalare un'immagine importante. Tra l'altro, sia la stampa che il giornale raccontano di questo sfogo che avrebbe fatto, uso il condizionale perché gli inquirenti lo hanno smentito, avrebbe fatto il padre di Loris, il sospetto del padre, pagina 3 della stampa. Perché se l'è presa con mio figlio, questa volta lo ammazzo con le mie mani. Ecco, questa frase che avrebbe detto il padre, come racconta Fabio Albanese a pagina 3 della stampa, è una frase che, per la verità, qui ovviamente bisogna usare il condizionale, gli stessi investigatori smentiscono questo sfogo che però è presente anche sul giornale, il titolo è questo: Andrea ha ucciso il padre, so chi è stato, lo ammazzo. Gli inquirenti smentiscono lo sfogo dell'uomo, la procura però dice è omicidio volontario. Anche qui ovviamente c'è il rischio di dare delle notizie che poi non sono confermate, ma la certezza ormai pare anche per la procura che questo bambino sia stato prelevato probabilmente da qualcuno che conosceva bene, proprio perché è arrivato sulla soglia della scuola ma non è entrato, pare, e dovrebbe aver seguito evidentemente una persona di cui si fidava. Repubblica a pagina 3 si concentra sul ruolo dell'uomo che ha trovato il corpo del piccolo, Orazio Fidone, cacciatore. Perché si concentra? Beh, intanto perché è stata sequestrata l'auto di questo signore. D'altronde era la persona più vicina, era la persona che si è sbracciata quando sono arrivati i carabinieri per dire ecco qui l'ho trovato, e quindi è stata sequestrata la macchina. Quella Suzuki bianca con lo sportello aperto ferma sulla stradina a fianco del canalone del vecchio mulino, saltata subito agli occhi, scrive Repubblica, della volante che sabato pomeriggio poco prima delle 5 stava battendo la campagna fuori dal paese. Ma subito dal canneto è saltato fuori lui agitando le braccia: aiuto, aiuto, ho trovato il bambino, l'ho trovato. E i sospetti erano subito svaniti. Ieri chiamato, dice, sono in questura per collaborare alle indagini, ho messo la mia auto a disposizione degli investigatori. Eppure ci sono alcune cose che hanno insospettito, racconta Repubblica agli inquirenti. Innanzitutto il luogo in cui lui, da volontario, come si è definito, impegnato nelle ricerche, è andato a cercare quasi a colpo sicuro il bambino. Poi la troppa precisione nelle indicazioni date, a cominciare dall'orario, 16:55 ha detto. E infine una strana, accorata dichiarazione rilasciata sabato sera subito dopo il ritrovamento del bambino. Ha detto questo: se avessi potuto dargli la mia vita lo avrei fatto. Ovviamente si chiedono questo gli inquirenti, ma perché stanno agendo a 360 gradi, si chiedono anche, scrive Repubblica, perché mai a sole 4 ore dall'inizio delle ricerche di Loris questo cacciatore si sia fiondato a colpo sicuro in una zona di campagna lontana dal luogo da cui era sparito il bambino. L'ho cercato in quel posto, dice lui, perché pensavo che era una zona dove nessuno sarebbe andato. Comunque, al momento non risultano indagati, ma si sa, queste cose poi vedremo nel corso della giornata. Certo, fa davvero molta, molta tristezza vedere la foto di questo bambino che ti guarda con i suoi occhi a 8 anni e che trovate sulle prime pagine di tutti i giornali. Cambiamo tema. E parliamo invece di quello che scrive il giornale riguardo a una persona molto popolare, una comica, Luciana Littizzetto, approvata anche, apprezzata da moltissimi italiani, e che il giornale mette in prima pagina perché, per carità, la ricchezza non è mai una colpa, ma fa un po' specie leggere in prima pagina del giornale: la parolaccia ti fa ricca, la Littizzetto ha 22 case. Questo è il titolo di prima pagina del giornale. Che soldi che fa! La Littizzetto, regina del mattone. Spettacoli TV, libri, film, a forza di battute, di parolacce, scrive il giornale con Stefano Filippi, Lucianina ha creato un piccolo impero immobiliare a 22 tra case e garage. Una casa a Milano, classe a 3. Categoria 3, classe 6, 2,5 vani, una novantina di metri quadrati, abitazione di tipo economico ma dalla rendita elevata. Ma soprattutto, scrive il giornale, negli anni la Littizzetto ci ha preso grande gusto a ballare il ballo del mattone a Bosco Nero, luogo degli affetti familiari, possiede 2 garage e 4 appartamenti, ma è nella grande Torino che l'attrice ha concentrato la propria intensa attività da immobiliarista. 10 appartamenti, 3 garage, 2 porzioni di un edificio accatastato come magazzino. Tutti gli immobili, per un totale di 22 tra case e garage, sono intestate lei al 100%, tranne le quote del deposito in corso Quintino Sella e una rimessa al 50% con il compagno. Totale 72,5 vani di abitazioni, 124 metri quadrati di garage, una rendita catastale che l'Agenzia delle Entrate fissa in 13.121,26 euro, che rivalutata del 5% e moltiplicata per il coefficiente di 120 dà un valore di circa 1.650.000 euro. Comunque è la base imponibile questa da usare nelle compravendite. Sta di fatto 22 tra case e garage, questo è il titolo, e va bene. Le polemiche ci saranno anche sulle case, come se sia una colpa avere 22 case. Beata lei. Ma siamo al momento dell'articolo Mani sul volante, l'articolo che ci fa più incazzare, che mi fa più incazzare di questa giornata. Mandate sempre le vostre foto se volete, con le mani sul volante, le mani sulle tazzine del caffè bollente, eccetera. Oggi vince niente po' di meno che un sottosegretario, il sottosegretario all'istruzione Davide Faraone, che firma un editoriale in prima pagina della Stampa a favore delle occupazioni scolastiche, che sono per Faraone una lotta all'apatia. Sentite bene, non basta il suono di una campanella per fermare l'energia che si crea, cresce e muove in una scuola per poi contagiare il mondo fuori. Ho partecipato anch'io ad occupazioni ed autogestioni scolastiche, esperienze di grande partecipazione democratica, che ricordo con piacere, in alcuni casi più formative di ore passate in classe. E qui sentite il sottosegretario Faraone: io le istituzionalizzerei pure se non fossi convinto di svilirne il significato. Il governo crede così tanto nell'autonomia scolastica che pensiamo che i singoli istituti potrebbero prevedere, se lo ritenessero utili, momenti simili di autogestione programmata come esperienza curriculare da far fare ai ragazzi. Scuola è didattica, scuola è studio, ma non può essere solo ragazzi seduti e cattedra di fronte. Io ho maturato la mia voglia di fare politica proprio durante un'occupazione. E chissà quanti hanno cominciato a far politica, vita associativa, hanno scoperto la passione civile proprio partendo da questa esperienza. Io le ricordo ancora oggi nitidamente le occupazioni. Per carità, più avanti scrive: nessuna istigazione ad occupare le scuole, ovviamente. Vorrei evitarmi la solita ramanzina di Giorgia Meloni, che dopo aver detto a Del Piero in che squadra deve giocare, dopo che ha spiegato ai genitori e ai bambini come essere felici, spieghi a me che devo essere responsabile e non spingere i ragazzi all'anarchia e alla rivoluzione. Questo è il sottosegretario all'istruzione che vince il premio di oggi Mani sul volante, ma domani, se vuole, sarà ai nostri microfoni. Ma signora, ma che fa? Metta le mani sul volante, signora, ma andiamo, per cortesia. Alessandro Milan, what else? Beh, anche questa alla George Clooney. Come sta George Clooney? Un abbraccio a George, che ci ascolta. Non è male anche questa. Allora, vediamo un po' a parlare di politica. La politica che si anima un po' delle interviste della domenica, del weekend. Matteo Renzi è andato dalla Luce Annunziata in mezz'ora. Il Corriere della Sera però titola in prima pagina con queste parole: la fiducia in Renzi cala sotto il 50%. È il sondaggio che settimanalmente Nando Pagnoncelli fa per il Corriere della Sera. Fiducia in calo per il premier, sale Salvini. Il dato che riscontra Pagnoncelli a pagina 3 è che la percentuale della fiducia nei confronti del Presidente del Consiglio scende per la prima volta sotto la soglia fatidica del 50%. Era al 54%, ora rispetto a ottobre è al 49%, quindi perde 5 punti percentuali. Al secondo posto nella fiducia si conferma Salvini, che aumenta il proprio consenso di 5 punti, era al 28, sale al 33%. Al terzo posto nella fiducia, e non sono le dichiarazioni di voto, ma la fiducia, gradita al 28% degli italiani, al terzo posto Giorgia Meloni, quindi Berlusconi al 25%, Alfano al 22%, chiudono Vendola apprezzato dal 18% degli italiani e Grillo col 17%. Questa la fiducia dal sondaggio che trovate sul Corriere della Sera in prima pagina. Per quel che riguarda invece le parole, beh, ieri Renzi ha detto: Berlusconi non dà più le carte. È questa la frase chiave del giorno. È seduto al tavolo, ma non dà più le carte, cioè non comanda lui il gioco. Come dire, è seduto al tavolo, ma non è che può dettare, per esempio, la linea del prima si sceglie il successore di Giorgio Napolitano e poi si fa la legge elettorale. La legge elettorale. In realtà Berlusconi punta ancora a questo. Com'è il retroscena di Goffredo De Marchis a pagina 10 di Repubblica? L'ex cavaliere scommette l'addio di Napolitano prima e frenerà l'Italicum. Questo è il titolo del retroscena. Punta questo Berlusconi, tanto che il capogruppo di Forza Italia al Senato, Romani, dice: non c'è neanche bisogno di fare ostruzionismo. Al momento il testo dell'Italicum modificato ancora non è pronto, non è nemmeno calendarizzato e il 19 dicembre il Senato chiuderà per le ferie natalizie. Quindi, secondo i calcoli di Romani, di Paolo Romani, di Forza Italia, non c'è neanche bisogno di fare opposizione. L'Italicum slitterà all'anno prossimo e poi che succede? Succede in maniera ormai abbastanza chiara che Giorgio Napolitano si dimetterà. Tanto che lo stesso Presidente della Repubblica, raccontavano ieri i giornali, ha fatto sapere ai Presidenti di Camera e Senato che lui il 27 gennaio, giorno in cui si ricorda la Shoah e quindi c'è la commemorazione della giornata della memoria, lui non potrà essere presente. Cosa vuol dire questo? Che sarà per l'epoca già dimesso. Quindi una volta che si dimette, secondo la strategia di Berlusconi, passa davanti nelle cose da fare l'elezione del successore di Napolitano davanti appunto alla legge elettorale. E su questo allora Renzi apre in qualche modo ai grillini. Ieri nell'intervista con Lucia Annunziata ha detto: vabbè, ma se Berlusconi non ci sta e ci stanno i grillini, benvengano. In più c'è il dibattito per il Colle. Berlusconi, il nome per il Colle deve essere prima concordato, pagina 3 del giornale. Mamma mia, che noia queste discussioni, e non siamo ancora a un mese, siamo ancora un mese e più prima delle probabili dimissioni di Giorgio Napolitano. Sentite Vendola, che è intervistato da Repubblica da Umberto Rosso, a pagina 11 comincia a dare i nomi. Uno come Prodi aveva fatto battere il cuore, o Stefano Rodotà, o anche Milena Gabanelli, perché no? Milena Gabanelli, non si capisce, è una brillante giornalista, una straordinaria giornalista. Vendola dice: perché no Milena Gabanelli al Quirinale? Invece la volta scorsa in Parlamento la classe politica consegnò a Napolitano tutto il segno della propria impotenza e via coi nomi. Berlusconi ha lanciato Amato, se lo ha messo in pista lui è bruciato, risponde Vendola. E Veltroni, Gentiloni, non entro nel toto nomi. Tutto quello che si può dire adesso è che la partita deve essere trasparente. E vabbè, è partito il toto nomi. Mentre forse il retroscena più interessante della politica ce l'ha La Stampa con Ugo Magri, pagina 7. Berlusconi avrebbe posto, scrive Ugo Magri, questa condizione netta a Renzi, anche se Renzi dice non dà più le carte: voglio tornare in Parlamento. Berlusconi ormai non punta più alla sospensione della pena, perché a febbraio gli scadono la questione dei servizi sociali, quindi ormai quella la fa. Ma rimane l'incandidabilità. E allora pare che Berlusconi, scrive La Stampa, non abbia espresso un semplice desiderio, ma una richiesta molto precisa a Renzi, quale dominus delle prossime elezioni presidenziali. Berlusconi si attende che il Premier concordi la scelta, che questa cada su una personalità disposta a rimetterlo in condizione di partecipare al girone di ritorno, come lo chiama lui, cioè di tentare una disperata rivincita quando si tornerà alle urne. Insomma, vuole essere candidabile. E staremo a vedere. Invece il Movimento 5 Stelle è un po' nel caos. Questo è il titolo che trovate più gettonato: Caos Movimento 5 Stelle, espulsioni senza assemblea. Si doveva attendere l'assemblea di mercoledì per ratificare le espulsioni dei due onorevoli Artini e Pinna. Artini sarà ai nostri microfoni alle 8:35. e invece sono stati espulsi ieri. Il capogruppo Cecconi ha comunicato loro che sono fuori, ma si parla di 20 nuove espulsioni, questo era scritto nei giornali di ieri, 20 a rischio, tutta la questione dei rimborsi, chi ha dato indietro e chi non gli ha dati del tutto i rimborsi come promesso. Allora su questo Sergio Rizzo oggi sul Corriere della Sera fa l'articolo più interessante, a pagina 5 va a vedere i dati di ciò che quelli del Movimento 5 Stelle hanno ridato, dello stipendio, della diaria oppure no. Premessa doverosa, il Movimento 5 Stelle è l'unico movimento politico che fa questo, tutti gli altri si tengono il 100% e non si pongono il problema. Loro però invece hanno detto ridiamo, ridiamo, e Sergio Rizzo, ecco qua, le poche rinunce degli eletti di Grillo intascano oltre il 90% dei rimborsi. Ci aiutano, scrive Sergio Rizzo, i dati ufficiali dell'amministrazione della Camera dei Deputati. Da questi si ricava che dal 15 marzo al 31 dicembre 2013 le somme complessivamente spettanti a vario titolo ai 106 deputati del Movimento 5 Stelle, 106 allora, prima delle espulsioni, erano 19.395.218,26 euro, mentre quelle effettivamente erogate sono state 18.912.552,46 euro. Insomma, la differenza di somme non erogate sono 305.581,29 euro. Sono i soldi a cui gli onorevoli grillini hanno volontariamente rinunciato. Si tratta del meno del 10% di quelle che spettava loro. Va considerato, scrive Rizzo, che la maggior parte di queste competenze, ovvero 14 milioni su 19 totali, non erano rinunciabili trattandosi di indennità e diaria. La somma della quale si poteva tecnicamente privare viene così restringersi a 5 milioni. Di questi 5 milioni il risparmio dovuto alle rinunce volontarie non va oltre il 5,7% del totale. Queste sono le cifre, poi ci si addentra ancora nell'articolo di Sergio Rizzo, sono cifre della Camera dei Deputati, quindi cifre ufficiali, le potete leggere. E poi c'è la questione degli stipendi, loro si tengono solo 2.500 euro e danno indietro 2.746,54 euro. Insomma, è tutto dettagliato nell'articolo di Sergio Rizzo sul Corriere della Sera. Sapete oggi Giuliano Ferrara come descrive, se Giuliano Ferrara odia politicamente Grillo, eccolo qui, qui entra Grillo insopportabile perché ha gridato vaffanculo e ora ne è stanchino, ora va a fanculo. Ecco, questo è il pacato commento dell'editoriale di Giuliano Ferrara che definisce insopportabile tutto questo perché ci ha fatto perdere tempo. La nuova categoria che ripropongo come essenziale è questa, la perdita di tempo. Così Giuliano Ferrara su Beppe Grillo. Ma è tornato il campionato, è tornato Mauro Meazza. Buongiorno Mauro. Buongiorno, non mi risulta. Non mi risulta. Procedo alla lettura dei risultati di ieri. Milan-Udinese 2-0. Stavo occupandomi della classifica, della qualità della vita, e quindi non ho potuto seguire queste vicende, peraltro mi sembra intermittenti, no? Intermittenti, sì. Comunque, intermittenti. Vabbè, allora Ravenna in testa alla classifica. Ravenna in testa alla classifica, sì sì, non Torino, ma invece no, Ravenna. Ecco, questa l'abbiamo capita solo noi che seguiamo il calcio. Comunque non Torino, ma Ravenna vince la classifica della qualità della vita, si impone su Trento e Modena e poi Belluno, Emilia, insomma tutti i dati sul Sole 24 Ore di oggi. Caro Alessandro, sai, ne abbiamo già parlato nei GR, insomma ne parleremo poi durante la giornata, quindi io rinvio alle edicole, insomma edicole digitali, edicole fisiche, quello che volete, per trovare tutti i dati della nostra 25esima edizione. Sono 25 anni che calcoliamo appunto la qualità, la vivibilità nelle province italiane, nei territori italiani. La tua qualità della vita, alzandoti così presto, non so se sia molto alta, vedremo di inserirti nella 26esima classifica l'anno prossimo. Questo parametro, a che ora vi svegliate nel prossimo? Stiamo a chiederlo, sì, a una sessantina di milioni di persone, poi vediamo come pesare naturalmente il dato dal punto di vista statistico. Senti, ti voglio dire, stai attento anche all'ISEE. Guarda, io continuo a dirtela questa cosa e tu me lo sottovaluti. No, non sottovaluto. No, No, me lo stai sottovalutando. Guarda che oggi Valentina Medis puntualmente ci avvisa che i comuni e le regioni stanno facendo la loro bella fatica a cercare di aggiornarsi per essere pronti per il 31 dicembre. Vedremo se poi ci riescono. E poi, come ultima cosa, attenzione, è una cosa che riguarda direttamente i tuoi amici mani sul volante, ai termini di notifica della multa dell'autovelox, sì, ma in generale dell'infrazione del codice della strada, perché un giudice di pace a Milano ha detto che ad esempio sull'autovelox la multa te la devono dare entro i 90 giorni dallo scatto della foto e non 90 giorni da quando poi pare all'ente contestante. E questo, la sai dove l'ho letto? Indovina in che pagina? Sono solo 24 ore. Sono un po' nervoso. Sì, norme e tributi, ovviamente. Ah, ecco, ecco. Ma perché sei nervoso? È perché mi è appena arrivata. Vabbè, lasciamo stare, dai. Ah, vabbè, niente. Allora, hai toccato un tasto dolente, come si suol dire. Ho toccato un tasto dolente perché è appena arrivata una. Vabbè, andiamo avanti, su, Mauro, andiamo avanti. Ma tu leggi, vai piano e leggi solo le 24 ore, non mentre guidi, naturalmente. Stava andando a 62 all'ora. Stai zitto, stai troppo, zitto. È troppo. Traffico! Alessandro Milan, lo zio Pester, Benoantri. Va bene, mi scrive il mio amico Vittorio Pezzuto di celebrare anche il Grifone al terzo posto, che domenica incontrerà una squadretta, dice lui. Domenica c'è Genoa-Milan, attenzione a fare gli spacconi, caro Vittorio, che poi dopo arrivano le legnate sulla nuca quando meno te lo aspetti. Comunque torniamo alle questioni dei giornali e raccontiamo quello che è in mente per il governo italiano, e cioè l'acciaio di Stato. Questo è il titolo del Secolo XIX, pagina 4, ma soprattutto Repubblica racconta di cosa stiamo parlando. Stiamo parlando dell'Ilva, che rischia, sapete, di andare a carte all'aria. Addirittura, secondo Repubblica, ci sono i soldi per pagare le tredicesime e gli stipendi di Natale e poi basta, gli stipendi di dicembre e poi basta. E allora eccolo qua, il piano di Renzi: fare intervenire lo Stato con un commissario straordinario e poi la Cassa Depositi. Ecco qui, acciaio di Stato. Roberto Mania su Repubblica racconta in due pagine, pagina 6 e 7, qual è il piano del governo. È il piano B per l'Ilva. Il governo è pronto a chiedere l'amministrazione straordinaria per il gruppo siderurgico, sostanzialmente dichiararne il fallimento, applicare la legge Marzano riservata ai grandi gruppi con più di 500 addetti e oltre 300 milioni di debiti, insomma fare un default pilotato con un decreto legge ad hoc che potrebbe essere varato nei prossimi giorni, forse oggi stesso nel Consiglio dei Ministri. I tempi comunque saranno strettissimi. E poi l'idea è quella di risistemare l'azienda per poi venderla. D'altronde nessuno in queste condizioni, scrive Repubblica, comprerà mai la società, non gli anglo-indiani di ArcelorMittal, il più grande gruppo europeo dell'acciaio, alleati con Marcegaglia, non l'italiano Arvedi, che in ogni caso ha chiesto l'aiuto finanziario del Fondo Strategico Italiano, cioè il braccio industriale della Cassa Depositi e Prestiti. Dunque, ripristinare l'Ilva per poi venderla. Vedremo se è questo acciaio di Stato, come titola il Secolo XIX, il progetto di Matteo Renzi. Un altro progetto, secondo il Messaggero, mette in prima pagina questo, è un piano antiburocrazia. Il governo, racconta a pagina 2 Diodato Pirone, ha pronto questo piano: via ritardi, moduli, file. Al prossimo Consiglio dei Ministri, per la verità il prossimo è questa sera, però staremo a vedere, ci sarà il pacchetto semplificazione. Nei prossimi 3 anni previsti 38 interventi, i campi saranno quelli dell'edilizia, le imprese, il fisco, la salute, le tecnologie digitali, per cercare di ridurre la burocrazia, una tassa occulta che viene quantificata sempre dal Messaggero a pagina 3 in 31 miliardi di euro che grava sulle spalle delle imprese italiane. Poi queste cifre bisogna verificare quali siano, però certo questo è l'impegno del governo secondo il Messaggero. Andiamo un po' alle notizie di ampio respiro. Il Papa, tornando dal viaggio in Turchia, ha rilasciato una breve intervista sull'aereo con i giornalisti. L'intervista la trovate un po' ovunque, ovviamente. Il punto essenziale è questo: se il Corano è libro di pace, gli islamici lo dicano forte. Questo è l'invito che ha fatto il Papa che ha detto: è vero che davanti a questi atti terroristici in Medio Oriente e in Africa c'è una reazione che dice: se l'Islam è questo mi arrabbio, e tanti islamici offesi dicono: noi non siamo così, il Corano è un libro profetico di pace, questo non è Islam. Io lo capisco questo, ha detto il Papa, e credo sinceramente che non si possa dire che tutti gli islamici sono terroristi, come non si può dire che tutti i cristiani sono fondamentalisti, perché anche noi ne abbiamo. Così io ho detto al presidente: sarebbe bello che tutti i leader islamici lo dicano chiaramente e condannino quegli atti, perché aiuterà la maggior parte del popolo islamico a ascoltarlo dalla bocca dei suoi leader religiosi, politici, accademici, intellettuali. Noi tutti abbiamo bisogno di una condanna mondiale. Gli islamici che hanno un'identità dicano: noi non siamo questo, il Corano non è questo. Tra l'altro, se si gira pagina sul Corriere della Sera, dove c'è questa intervista come su tutti i giornali, Francesco Battistini racconta da Beida, Libia, a Derna, insomma, il primo avamposto dell'ISIS nel Mediterraneo. Guardate la carta geografica, guardatela, perché dista 500 chilometri dalle coste italiane. Derna, in Libia, dove c'è la Sharia, dove ci sono le decapitazioni, dove c'è da anni il califfato di Libia. Andate a leggere questa pagina 12 del Corriere della Sera. Va bene, siamo al momento conclusivo. Dopo il calcio, ha vinto la Juve, ha vinto la Roma, chi se ne frega, ha vinto soprattutto il Milan, ma la carta costa, articolo più inutile sui giornali, è mezza pagina dedicata dal Corriere della Sera con Massimo Gaggi a una foto, una celebrazione alla Casa Bianca. C'è Obama e ci sono le due figlie, oh che due belle figliole, ma mal vestite e annoiate, e allora scoppia il caso, mezza pagina sulle Obama Girls annoiate e mal vestite alla Casa Bianca. Ma chi se ne frega! Mattino. Sono le 8 e 18 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Come sapete, io qui conto le settimane cosiddette decisive, in maniera ironica, le settimane decisive per l'abolizione delle province, oltre che per la riforma elettorale. E lo faccio da quando, primo giorno del discorso programmatico dell'allora premier Enrico Letta, primo giorno di questa legislatura, di fatto in Parlamento si udirono le seguenti parole in Parlamento: aboliremo le province, nel discorso programmatico di governo. Sono passate appunto 82 settimane, oggi inizia l'83esima settimana decisiva, aggiungo ironicamente, in questa legislatura per l'abolizione delle province. Qualcosa è cambiato, come sapete, e vogliamo anche parlare di che cosa è cambiato di queste province che, siamo tutti d'accordo, sono ancora vive vegete, lottano insieme a noi, però hanno anche delle problematiche. Intanto voglio salutare Matteo Rossi, che è presidente della provincia di Bergamo. Buongiorno presidente, eccoci qua. Buongiorno a voi. Del Partito Democratico, e diciamo eletto come presidente delle nuove province, cioè come sono state queste elezioni? Chi è che ha votato per eleggerla presidente? Dunque, essendo secondo la legge del Rio un ente di secondo livello, hanno votato tutti i sindaci e i consiglieri comunali dei 242 comuni del mio territorio. Quindi sindaci e consiglieri comunali, non certo i cittadini. Oh, una cosa che nelle nuove province si può dire con certezza è che non si diventa ricchi a fare il presidente. No, lei ha pubblicato su Facebook il primo stipendio, diciamo così, da presidente. Quanto è? Sì, no, erano 139 euro per fine settembre-ottobre, ovviamente non è uno stipendio, ma era il cedolino del rimborso spese, che è l'unica cosa che la legge attribuisce. 139 euro, e come le spese queste? Perché questo rimborso spese? 139 euro per un mese e mezzo praticamente? No, non le ho spese perché bisogna risparmiare un pochettino, di fatto sono 0,36 centesimi a chilometro. Ah, fantastico. E quindi lavoriamo a cottimo, insomma. A cottimo. Più giriamo il territorio, Però presidente Rossi, se io dico le province non sono abolite, ho ragione, no? Perché su questo c'è una disputa a dire, anche Renzi una volta mi rispose a dire, ma insomma lei non va a votare la provincia di Milano, questa è la mia provincia, e questo per dire che sono abolite, però in realtà le province ci sono e tra l'altro lamentano il fatto che hanno delle competenze ancora, ma non hanno i soldi. Esatto, guarda, la questione è questa, c'è un percorso che a detta del governo porterà l'abolizione delle province dalla Costituzione, è chiaro che questo necessita dei tempi, delle riforme a cui tutti stiamo assistendo, e poi c'è stata una legge, la legge 56, la legge del Rio, che è una legge molto importante perché ha ridefinito alcune funzioni, ha definito le province di secondo livello e ha detto una cosa importante, che oltre a gestire alcuni servizi, strade, scuole, sì, ambiente, pianificazione territoriale, il nostro compito di presidenti è aiutare i comuni a mettersi insieme. Quando si parla di aree omogenee, si parla di questa cosa qui, ed è una sfida importante. Con la legge del Rio si è passati da un dibattito un po' demagogico, se me lo consenta, sì, sulle province, a invece un inquadramento di no, però io per esempio oggi sulla stampa leggo l'ultimo allarme, proprio oggi pagina 9 della stampa, l'allarme delle province, sono diminuiti i fondi, a rischio fin da gennaio i centri per l'impiego, cioè c'è la possibilità che le province non abbiano i soldi e debbano chiudere i centri per l'impiego. O chi ha fatto esperienza con i centri dell'impiego sa che in Italia servono a poco, nulla, non servono assolutamente a chi ha perso il posto di lavoro, ma questo è un altro discorso. Ma come si fa tutta la legge, il Jobs Act, per recuperare le persone anche che perdono il posto di lavoro, e voi dite che non ci sono i soldi per i centri per l'impiego? Sì, sulla valutazione dei centri per l'impiego, quantomeno quelli in Bergamasca, ho qualcosa di diverso da dire, però la questione è questa, la nostra difficoltà è che da un lato noi stiamo facendo cose che ci attribuisce la legge del Rio e noi eravamo dentro quella discussione, dentro quel periodo. La legge di stabilità ha un po' cambiato la discussione e oggi di fatto, se gli emendamenti che sono stati spostati al Senato non andranno in porto, davvero la legge di stabilità rischia di rendere inattuabile la legge del Rio. E questo è un problema, perché se c'è una legge che dice che noi dobbiamo fare alcuni servizi, e questi servizi sono fondamentali, sì, occorre chiaramente mettere i soldi, ma è chiaro, ma infatti lei è d'accordo con me che a questo punto era meglio abolirle del tutto, però per abolirle bisogna togliere dalla Costituzione, mi rendo conto, no? La questione è molto semplice, noi dobbiamo rispondere nel modo migliore possibile alla domanda chi fa che cosa, e allora esistono le regioni che dovrebbero fare le leggi, esistono i comuni che gestiscono una serie di servizi e poi ci sono i cosiddetti servizi di area vasta, dove, a detta di tutti e del buon senso, se mi permette, serve un ente intermedio tra il comune medio piccolo e quella che è la grande regione, soprattutto in Lombardia. Le dico di Bergamo, dove abbiamo 242 comuni, il 70% sotto i 5.000 abitanti. È chiaro che quando tu vai a progettare il trasporto pubblico locale, a fare le politiche per il lavoro e tutte queste cose, sì, sì, tu metti in campo scelte amministrative che vanno oltre il comune e quindi serve un ente intermedio. Ma serve, lei dice serve. Ma non basterebbe ridistribuire le competenze tra regione e comune? O poi c'è anche questa, presidente Rossi, no? Perché questa l'ho letta su Libero sabato e sono sobbalzato, perché quando mi dicono ma tu vuoi abolire le province vuol dire che vuoi mandare a casa molte persone che lavorano nelle province. No, nessuno vuole mandare a casa nessuno, ma succede, racconta Libero da sabato, le province cancellate, la CGIL vieta di trasferire 1000 travette. Cioè cosa succede? Che al Ministero della Giustizia fanno un bando che dal prossimo 2 dicembre, cioè domani, si devono ricoprire 1031 posti vacanti del personale amministrativo destinato agli uffici giudiziari. Molti di questi 1031 si volevano pescare nel bacino delle province, utilizzando la mobilità volontaria, la mobilità dei dipendenti pubblici. La CGIL si è opposta, così leggo da Libero, perché il personale immesso dalle province sarebbe stato più qualificato di quello dei ministeri, per cui si attende piuttosto un aumento di stipendio di quelli lì, piuttosto che pescare dal personale delle province. Presidente Rossi, non so, io non so se conosceva questa storia, la racconto come l'ho letta su Libero. Nessuno vuol mandare a casa il personale, ma è cosa fa adesso il personale delle province, obiettivamente? Il personale delle province si occupa delle funzioni che alle province sono attribuite, e le dirò che a me ne servirebbero molte di più di persone. Detto questo, ma, però vede, è molto logico. Ma cioè, come? Cioè, perché addirittura molte di più? Voglio dire, addirittura cioè le funzioni semmai sono quelle di prima o diminuite? Se... Io ho ereditato una pianta organica che a mio avviso, per svolgere al meglio il servizio e rispondere in modo puntuale a tutti i territori, dovrebbe essere quantomeno aggiustata, ovviamente non in esubero. Però la logica è molto semplice: se noi abbiamo delle funzioni, servono risorse e servono le persone che su queste funzioni poi costruiscono i servizi ai cittadini. La domanda se è giusto che le province abbiano delle funzioni, non solo la mia risposta è sì per i motivi che le dicevo prima, sì, ma questa discussione è stata aperta e chiusa con la legge Delrio, che alcune cose le ha detto molto chiaramente. Quindi attenzione oggi, io sono stato a Roma l'altro giorno e so che nei parlamentari, poi al netto di quello che è il dibattito pubblico sul quale le province sono state prese come il vaso di coccio, insomma, c'è la consapevolezza di cosa fanno sul territorio. Guardi, io mi sono occupato negli ultimi 10 giorni di 3 crisi aziendali, e costruire tavoli tecnici, chiamare sindacati e imprenditori, lavorare coi centri per l'impiego per corsi che diano davvero una riqualificazione utile a ricollocarsi, è un lavoro che facciamo quotidianamente. Il dissesto idrogeologico. Sì. Quindi lei dice servono. Allora io voglio salutare anche il presidente della provincia di Lecce di Forza Italia, Antonio Gabellone. Presidente, buongiorno. Buongiorno. Grazie per buongiorno. Essere qui con noi. Allora, il presidente Matteo Rossi della provincia di Bergamo dice che le province servono, ma anzi il problema è che servono e non ci sono soldi. Noi qui contiamo le settimane che servono per la loro abolizione. Immagino anche lei ci dica che servono le province, assolutamente, presidente Gabellone. Guardi, questo è un giudizio che va esteso a chi usufruisce dei servizi che le province sino ad oggi hanno messo a disposizione del cittadino utente. Io sono convinto che un ente intermedio tra il comune e la regione, soprattutto in un territorio disposto in lunghezza, così parcellizzato, noi in provincia di Lecce abbiamo 97 comuni, molto dei quali sotto i 3.000 abitanti, abbia la necessità di un ente, seppure snello, seppure rivisto, che in qualche modo coordini e pianifichi rispetto ad attività quali appunto il lavoro, la formazione, sì, il marketing, il turismo, le politiche sociali rispetto a competenze e funzioni che le province avevano, di cui non si può fare a meno. Non si capisce perché non si, io su questo punto non capirò, ma sono di coccio, come vuol dire. Guardi, perché no, quelle funzioni non le possono svolgere regioni e comuni? Non l'ho mai capita questa cosa. Ma, cioè, le dico non tutti, è che muoiono con le province queste funzioni. Le immagini che comuni sotto i 3.000 abitanti si organizzino per realizzare il trasporto dei ragazzi disabili presso le scuole medie superiori, che è un compito che oggi svolgono le province. Altro è farlo per 1, 5, 6, 10 comuni da 3.000 abitanti, altro è organizzare un sistema che raccolga o che organizzi tutto su 97 comuni. Le immagini comuni che hanno meno di 3.000 abitanti e che debbono programmare, progettare e pianificare attività per partecipare a bandi europei oppure a bandi europei che attraverso la regione vengono pubblicati. Diventa tutto molto più complesso. No, ma guarda, infatti forse in una istituzione dello Stato efficiente non dovrebbero esistere neanche i comuni sotto i 3.000 abitanti, probabilmente. Questo è tutto un processo su cui bisognerà ragionare e lavorare, ma le dico il mio pensiero, pur non condividendola la riforma, perché di fatto non si risparmiava nulla o si risparmiava così poco e su quel poco si poteva pure lavorare per diminuirlo, Detto questo, bene, se il governo ha deciso una riforma, andiamo avanti, una riorganizzazione dello Stato, andiamo avanti. Il tema di questi giorni, sino al 31-12, è che la riforma ha degli aspetti che, diciamo, normativi, e poi c'è un'armonizzazione di tipo finanziario che non va di pari passo. Vabbè, insomma, diciamocelo chiaramente, non ci sono i soldi, diciamo, Presidente. No, diciamo, hanno fatto la riforma, ma non ci sono i soldi. Ha deciso di prendere i soldi. Le riforme, si dice spesso, che non si fanno a costo zero. Questa riforma si sta tentando di farla azzerando quelle risorse che venivano spese Ma infatti è sempre così, quando si fanno le cose pasticciate il risultato è questo, secondo me, Presidente, quando si fanno le cose pasticciate il risultato è questo. Ma voglio dire, io sono, allora spezzo una lancia per le province, impazzisco e dico, allora lasciavate tutto com'era, lo dico al governo, non a voi, lasciavate tutto com'era, se no si faceva il procedimento di cancellarle dalla Costituzione e si toglievano, e i comuni sotto 3.000 abitanti non devono esistere in un paese normale. Se esistono, si organizzano a livello consorziale con i comuni un po' più grandi per organizzare i servizi e le funzioni che spettavano alle province. Io la vedo così, ma insomma, sentiamo Carmelo da Cosenza prima della pubblicità. Carmelo, buongiorno. Buongiorno, mi ha rubato quasi tutto quello. No, volevo dire. Allora, io non sono d'accordo sull'abolizione delle province, ecco, sì. È stato buon cavallo di battaglia, si è andati un po' troppo oltre. Lei le vorrebbe tenere. Io le vorrei tenere proprio per non tenere i comuni al di sotto dei 3.000 abitanti, come diceva lei. Ma qui Carmelo invece si tiene tutto. Cioè, capisce? Perché sennò dicono. Sì, no, cioè, lei vorrebbe le province, però abolire i piccoli comuni o che si occupano. No, abolire quello francese, per esempio. Che no, si accorpi. Cioè, gli si lascia il campanile da guardare, sì. Ma le funzioni effettive vengono svolte da un organismo che ha un minimo di struttura, che ha un minimo di competenza tecnica. Perché lei non so se ha idea di che cosa possa essere un comune inferiore ai 3.000 abitanti o anche di 3.000 abitanti. Più delle volte, specie al nord, lo potrà confermare il presidente della provincia di Bergamo, specie al nord sono organismi che magari hanno 8-10 dipendenti, di cui magari alcuni pure part time, insomma l'unico geometra o ingegnere in prestito che si debba gestire, ecco, i problemi come l'ecomostro che è stato distrutto stamattina, cioè contenzioso con... È chiaro, Carmelo dice, io avrei mantenuto le province per ridurre i comuni comunque accorpandoli. No, la sfumo perché devo dare la pubblicità, altrimenti poi sforo. Mi devo fermare qui, ringraziando il presidente Matteo Rossi della provincia di Bergamo e Antonio Gabellone, presidente della provincia di Lecce. Torneremo su questo tema, se volete chiamare 800 24 0024, c'è spazio magari per alcuni di voi ancora come ascoltatori. Intanto rientreremo, sarà nostro ospite Massimo Artini, che è il deputato del Movimento 5 Stelle, o ex, visto che è stato epurato nei giorni scorsi. Tra poco 24 mattino. È fantastico, perché prima l'ascoltatore ci ha detto che bisogna tenere le province così come sono, accorpare i piccoli comuni. Un altro ascoltatore ci manda un sms a dire: non era meglio abolire le regioni, accorpare le province? Ma sì, ognuna ha la ricetta migliore degli altri. Il risultato poi è che non si fa mai una minchia in Italia. Ma vorrei sentire Stefano da Palermo. Buongiorno Stefano. Buongiorno. Ho letto da Palermo e mi è venuta un'espressione molto in voga in Sicilia. Va bene, ci sta. Allora, volevo dire una cosa che può apparire ovvia, ma è bene che gli elettori lo tengano presente, cioè che stiamo assistendo all'ennesima pantomima del ceto politico nostro, che prima fa una promessa perentoria, aboliremo le province, e poi attraverso tutta un'operazione di trasformismo trova soluzioni per aggirare esattamente la promessa che aveva fatto, e così cambieranno nome, come si è fatto per l'IMU e le altre tasse. In realtà il procedimento, Stefano, è per arrivare ad abolirle veramente, poi non lo so se lo faranno. Bisogna cancellare dalla Costituzione, fare una riforma costituzionale. Anche il PD sta cercando di trovare soluzioni alternative all'abolizione: da una parte le abolirà, dall'altra cominciano a parlare di enti intermedi. e di trovare soluzioni per sostituire alla provincia qualche altro organo. L'altra cosa che volevo dire velocemente è che a questo punto l'elettore ha soltanto uno strumento nelle mani, che è quello del voto. Quando si andrà a votare deve stare ben attento a quelle che erano state le promesse, quello che è stato fatto, e punire coloro che hanno fatto... Punire. Sì, guardi, già il fatto dell'alto astensionismo, caro Stefano, per molti è una punizione. Non basta. Bisogna che ci si riappropri della possibilità di dire la nostra parola soltanto andando a votare, non dimenticando esattamente quelle che sono le promesse. In teoria è quello, il voto è quello, in teoria, Stefano. Uno va a decidere in base a quello che sono le promesse dei politici, se le ha rispettate oppure no, e vota quello che gli piace di più. Comunque Stefano, la ringrazio, magari torniamo tra qualche minuto con altri ascoltatori sulla questione delle province. Prima però vorrei salutare l'onorevole Massimo Artini. Buongiorno onorevole Artini, eccoci qua. Buongiorno. Gruppo misto a questo punto, no? Purtroppo, e non per colpa mia, sì. Da ieri. Ex deputato del Movimento 5 Stelle, anche se leggevo che bisognava aspettare in teoria mercoledì per sancire dall'assemblea parlamentare, e invece c'è stata cosa, un'improvvisa accelerazione, lei se l'aspettava il fatto di essere... Non mi aspettavo una cosa del genere, anche perché, come ho riferito ieri al capogruppo, se siamo quelli che una volta neanche non mettevamo un volantino fuori posto o un manifesto fuori da uno stallo di quelli consentiti, andare fuori dal regolamento perché qualcuno te l'ha chiesto più in alto di te è una cosa che è fuori da quelli che erano i principi del Movimento 5 Stelle. Ma qualcuno qui, cioè lei ha capito che sta succedendo al Movimento 5 Stelle? Le riporto quello che mi disse Beppe Grillo giovedì sera, molto semplicemente: abbiamo dovuto fare questa procedura, altrimenti te non saresti mai potuto passare per una procedura di espulsione, perché l'assemblea non te l'avrebbe mai ratificata. Questo è. E qual era il problema che dovevano espellere lei e Paola Pinna? Cioè l'ha capito? Cioè, perché lei ha restituito i soldi? La questione... Così almeno lo dico anche qui, io non ho, come c'è scritto sul post, che è una calunnia, rubato niente. Ho reso 60.000 euro all'inizio della legislatura e quei 6.000 euro, 7.000 euro venivano indicati. In realtà non sono andato contro un regolamento, ma era una valutazione che io stavo facendo insieme al capogruppo e sarebbe stata sanata nella settimana questa. Quindi era un po' un pretesto, fuori luogo. È molto chiaro un po' per tutti che fosse un pretesto. Il ragionamento qual è? Il ragionamento è che, come mi ha detto Peppe, il mio impegno anche sul territorio era troppo elevato. Da dare la capacità ai gruppi di poter lavorare senza essere... essendo autonomi nel principio del Movimento 5 Stelle, dell'autodeterminazione dei gruppi, cioè ogni gruppo ha la capacità di autodeterminarsi, e questo a giudicare dalle ultime scelte di un direttorio che non hanno niente a che fare con quelli che erano i principi in cui si è cercato di fare un movimento senza cariche elettive, e in questo caso neanche non abbiamo cariche elettive, abbiamo cariche nel metodo imposte. Quindi lei dice il direttorio non va bene perché si mettono 5, non c'è più il principio uno vale uno? Oltre a questo è un modo di proporlo che non può essere dato da una ratifica, perché io ho sempre imparato prima del Movimento 5 Stelle che non è il telecomando che dà la scelta, è i canali che hai a disposizione che ti danno la scelta, cioè chi decide il canale da mostrarti è quello colui che sceglie. Se te hai in questa situazione un metodo che ti impone 5 persone, potevo esserci io, come ho già detto, in quelle 5 persone, è una questione di metodo. E ci sono persone che questo metodo lo approvano. Sì, però io e questo sul direttorio. Però scusi Artini, io una cosa non l'ho capita, cioè se lei può essere chiaro con i nostri ascoltatori a dire secondo lei da chi e perché è stato messo fuori, cioè perché lei dice io ho fatto tutto a posto, che vuol dire mi adoperavo molto sul territorio, cioè c'è qualcuno che ha fatto partire un ordine, e se c'è ce lo dice? Beppe se ne è preso la responsabilità, ma io penso alle persone che lo circondano, penso il senatore Crimi ad esempio, che ha detto la stessa cosa in una riunione fuori contesto a Firenze dove si parlava di città metropolitane, venne a dire la medesima cosa, cioè che... Quindi, lei andava espulso? No, che io lavoravo troppo. Ma che accusa è lavorare troppo? Lo chiedo a lei. Questo è, se ci sono le registrazioni, quindi non è una cosa... è questo che se mi aiutava a decrittare questa roba, lavorare troppo... Nel senso, io sia in Parlamento dove ho un buon, non so, un discreto indice di produttività, sono una commissione come la commissione difesa che non ha un numero elevato di provvedimenti, quindi se uno va a valutare quello difficilmente può valutare solo quello, ma è un discorso di, anche di rispetto e di stima da parte di quelle che sono le forze in generale, sia all'interno che all'esterno del Movimento 5 Stelle. L'altra cosa è sui territori, la mia volontà di lavorare, ma non perché ci fosse un obiettivo diverso da quello era quello iniziale, cioè il fatto di i territori sono la verità e la parte più concreta del Movimento 5 Stelle. Insomma, lavorava troppo, continuano. Io le faccio un esempio, sabato io pure in questo marasma ero a Monsulmano Terme a fare un incontro sulla fusione dei comuni che avevo seguito in Regione Toscana per il mio comune dove ho iniziato a lavorare nel Movimento 5 Stelle e ho fatto un intervento, la cosa che più mi rammaricava era il fatto che per me non era cambiato niente, certo. Perché io non sono entrato nel Movimento 5 Stelle per un cerchio rosso e 5 stelline, ma per dei principi, per dei valori fondanti. E adesso che provo? Cioè è deluso, è arrabbiato? Come... La delusione... l'elaborazione di un lutto, te hai un sogno, hai impegnato la tua vita negli ultimi 4 anni in maniera profonda per questo sogno, dando mano al gruppo parlamentare, ai gruppi locali, al paese a cambiare, perché ricordo, erano quello con le medaglie sul tetto per salvare la Costituzione l'anno scorso, certo. Per dire, quindi anche lì il minimo rispetto umano. Insomma, un sogno deluso. Ma è vero che lei ha mandato a quel paese Grillo, anzi di più, pare che gli abbia detto ma va a cagare. Sì, il rapporto è stato decisamente franco, quando uno parte per primo... Cioè, io che gli ha detto? Niente, se uno ti non manda in guardia, le spiego, questo è gossip. Io l'ho evitato prima, se lei è presente, io non ho mai fatto grandi esposizioni mediatiche, non perché non penso di averne qualità, ma perché ho sempre voluto parlare di temi. In questa fase, al netto dell'iniziale delusione e senso di essere tranciato, dilaniato all'interno, in questa fase non è nessuno interesse mio sapere se ho mandato a quel paese Beppe o meno, e non penso sia interesse del paese. Sì. Il paese ha altre necessità, il Movimento 5 Stelle dovrebbe prendersi delle responsabilità, come dissi lunedì scorso sul giornale, sul Fatto Quotidiano, dopo il risultato delle regionali in Emilia e in Calabria, il Movimento 5 Stelle non si è preso queste responsabilità. Ah, forse è per questo che l'hanno cacciato allora. Non lo so. È uno che ha detto che non ci sono dei problemi. Il Movimento 5 Stelle, io l'ho detto molte volte dentro il gruppo, e questa era una cosa, era un pretesto, l'ha detto Beppe, non l'ho detto io. E dentro il gruppo io ho sempre fatto presente che noi bisogna prendere delle responsabilità, che non vuol dire allearsi, che non vuol dire fare tutta una serie di passaggi politici, vuol dire un'altra cosa, vuol dire avere la voglia di proporre qualcosa di diverso. Io questo lavoro l'ho fatto per 1 anno e mezzo e continuerò a farlo nella mia commissione difesa, sì. E spesso e volentieri le idee che ho portato avanti sono state quelle che gli altri hanno portato avanti, gli altri come forze politiche, sì. Perché se, come sempre, concludo, mi scusi se questo è un passaggio importante, come tutti gli attivisti sul territorio, questo è importante, perché il Movimento 5 Stelle non è quel luogo, il Movimento 5 Stelle è la passione delle persone che sono sul territorio. Se te fai proposte, hai idee chiare e sono facilmente proponibili anche agli altri, senz'altro è difficile che si possano confutare e senz'altro verranno applicate, prima o poi. Prima o poi, va bene. Io intanto la ringrazio. Lei ovviamente rimane, cioè, non è che pensa di dimettersi, no, rimane. No, guardi, anche questo, io ho fatto in questi giorni un grande sforzo per parlare con tutti i gruppi locali, dove c'è un forte disappunto, una delusione, sì, sì. Anche nei gruppi locali c'è questo disorientamento forte. Io ieri, tra sabato e domenica, mi sono girato Firenze, Arezzo, Livorno, Viareggio, Pistoia, perché in settimana andrò a Grosseto, andrò a Lucca, andrò a Pisa, perché voglio parlare con le persone per cui io faccio il portavoce, e sono stato lì per loro. Lì per loro, lì, cioè si sente ancora, anche se loro sono del Movimento 5 Stelle umani. E lei... Sì, certo. La cosa è disumanizzante per come sono stato trattato. Il rapporto umano è fondamentale, era alla base del rispetto che io chiedevo alle altre forze politiche che non avevano, la disumanizzazione della politica. Invece l'essere umano ha necessità di quel rispetto fondamentale che deve essere dato. Va bene, intanto la ringrazio, vedete, buona grazie giornata e vedremo come va questa storia. L'onorevole Massimo Artini, espulso dal Movimento 5 Stelle, rimane ovviamente deputato. Traffico. 24 mattina. Allora, le 8:51 minuti, come sapete, da un po' di giorni noi andiamo a pizzicare, a raccontare le storie di ascoltatori che ci ascoltano dall'estero. È incredibile, scriveteci 24 mattino e radio24.it se ci state ascoltando dall'estero. Ciao Italia! Qualcuno un giorno ciao Italia, oggi dove andiamo? Voglio salutare Alessandro che ci parla da... Buongiorno! Ciao Ale! Dove sei? Chi sei? Mi chiamo Alessandro e sono un cuoco da Mumbai in India. Mumbai in India, fantastico! E che ci fai lì a fare il cuoco? Faccio da mangiare, che devo fare? No, certo, questa sì. Dai, se, mi sembra dalla parlata che sei toscano, sbaglio, no? Io sono di Monte, diciamo sono di Marliana, un paesino in provincia di Pistoia, sulle colline di Monte Catini Terme. E come sei finito lì a Mumbai? È stato un colpo di culo, devo dire. Scusa il termine, ma tanto. Vabbè, ma è la, bella la franchezza così. No, dunque io diciamo nel marzo del 2012 sono andato a lavorare a Londra in un diciamo famoso ristorante italiano molto antico, 50 anni di apertura, il quale era in trattativa con questa multinazionale alberghiera indiana, non so se posso dire il nome. Sì, sì, puoi dire quello che vuoi qua. No, Taj Hotels, che fa parte del gruppo Tata. E ti hanno portato lì, ti hanno portato lì a Mumbai. Sì, hanno fatto un ristorante qui in società con Taj Hotels, io mi trovavo lì insieme a un altro che è qua con me, anche lui. E niente, che sono finito qua. No, tra l'altro Alessandro ci ha mandato, come tutti quelli che intervengono qui, delle foto che noi pubblicheremo sul nostro profilo Facebook. E sì, che ci fai ad ascoltare 24 mattino? Come ci ascolti? Con live? Su internet, streaming. Su internet, perfetto, in streaming. Che fai lì? Qual è il piatto che va per la maggiore per gli indiani? Il piatto italiano, ovviamente? Vabbè, va molto la pasta, come da tutte le parti, no? Vabbè, la pasta, ho capito. Una bella pasta al pomodoro, semplice, no? No, sì, anzi, hai detto proprio bene. Il piatto che va per la maggiore è un piatto di spaghetti con semplicissimo pomodoro fresco, e un po' di peperoncino, anzi molto peperoncino, perché qua si sa, no? Certo, sempre speziato. E che pensi? Non facciamo pizza, perché questo ristorante si trova all'interno di un albergo a 5 stelle. Ah, e quindi la pizza... Tra l'altro questo ristorante modestamente è stato valutato e reputato il miglior ristorante italiano di Mumbai. Vabbè, col nostro chef Alessandro, ma grandissimo allora. Lo dovevo dire. No, ma è giusto, è una cosa di cui vai orgoglioso. Dici Alessandro che pensi dell'Italia, che idea ti sei fatto dell'Italia da lì ascoltando la nostra radio, ascoltando, leggendo. Che pensi dell'Italia? Milan, io sono stato a giro per il mondo per una buona parte della mia vita. Diversi anni fa sono tornato in Italia con l'idea di rimanerci, però purtroppo sono dovuto ripartire. Sono andato a Londra, ora sono qua, chiaramente io ho 50 anni ora e mi piacerebbe tornare a casa, rimanerci. Ma non ci sono le condizioni. Aspetto tempi migliori, vabbè, aspetti tempi migliori. L'ultima cosa che ci vuoi dire dall'India, quanti gradi ci sono lì? Che tempo fa a Mumbai? Qui è sempre intorno ai 30 gradi anche d'inverno, anche di notte. Molto caldo, molto umido, e devo dire è l'unica cosa che mi dà veramente noia qua. A parte poi tutte le altre problematiche, la città che non è che sia bellissima, insomma io vivo in albergo, quindi non mi posso lamentare. Vabbè, allora Alessandro, che facciamo? Ti mandiamo un grossissimo abbraccio. Quanti chilometri disti da casa? Quanti chilometri stai? Quasi 8.000, 7.000 e qualche cosa. 7.000 chilometri, ma arriviamo anche lì. Intanto ti mandiamo un grande abbraccio da 24 mattino e tutti coloro che ci stanno ascoltando in questo momento dall'estero, in diretta, ci ha scritto da ovunque e noi ogni giorno scopriremo uno di voi, vi verremo a cercare. Mandateci anche le vostre foto, scriveteci a 24 mattino e radio24.it e potreste essere protagonisti del Ciao Italia anche voi un giorno. Intanto saluto, fermandoci. Chi saluto? Carmelo Lauricella in regia e in redazione Elisabetta Fusconi, Alessandro Longoni e Lorenzo Nespoli. Ci troviamo domattina alle 6:30 puntuali. Alessandro Milan è un'ottima. ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e le gastriti da politica. 24 mattino.